Diciamo che proprio all'interno del libro cerchiamo di dimostrare come non è che i poveri stiano da un lato e noi ci troviamo invece dall'altro lato. Tutti noi siamo toccati in qualche modo dalla povertà, soprattutto in un momento in cui con l'inflazione che galoppa e gli stipendi che invece non riescono a tenere il passo, di fatto ci troviamo un po' tutti a dover fare delle scelte tra i beni da acquistare, i servizi che ci possiamo permettere. Faccio un esempio, ci sono molte famiglie che devono scegliere se permettersi ad esempio il nido oppure un viaggio, e quindi anche nei momenti in cui non siamo di fronte a una povertà estrema comunque ci ritroviamo toccati da questo tipo di fenomeno. Nel libro, oltre a enunciare dati, tu raccogli anche testimonianze che appunto hai raccolto durante il tuo lavoro in diversi contesti. Questo libro è un po' la summa, se vogliamo, dei miei ultimi anni di lavoro sul tema delle disuguaglianze e della povertà. All'interno appunto del saggio si trovano testimonianze di persone che ho conosciuto in diversi contesti, in diverse città, e che mettono insieme anche diversi tipi di povertà, dalla povertà energetica alla povertà abitativa fino alla povertà alimentare. Abbiamo scelto di far sentire anche le loro voci proprio con l'obiettivo di sentirli più vicini a noi, di farli parlare, di fare raccontare perché si sentono in una situazione di fragilità e come anche vorrebbero uscirne. L'ho anticipato, ma te lo chiedo in modo ancora più esplicito: quando si parla di povertà si pensa sostanzialmente a una carenza di soldi, però tu nel libro, anche in diversi capitoli, parli di diversi tipi di povertà che colpiscono anche persone diverse, ad esempio se parliamo di povertà educativa. Sì, esatto, la povertà educativa in particolare è una povertà abbastanza infida, perché in realtà colpisce ragazzi che nascono in una situazione di povertà e in Italia molto difficilmente riescono a uscire, perché la povertà diventa quasi un'eredità che ci si porta dietro sulle proprie spalle anche senza averne la colpa. All'interno del libro ci sono diversi tipi di povertà che vengono raccontati, anche per far vedere che comunque si tratta di un fenomeno multifattoriale, quindi non è solo la povertà economica, ma è anche la difficoltà ad avere una dieta adeguata, quindi la povertà alimentare, la difficoltà ad avere un tetto o una casa adeguata, la povertà abitativa. Si parla ad esempio di povertà energetica, quando le persone fanno fatica a pagare le bollette, quindi tutto ciò che alla casa è correlato, o di povertà educativa o digitale, quando i ragazzi che nascono in famiglie più fragili non riescono a raggiungere certi livelli di studi, di istruzione, o semplicemente scelgono di non farlo perché devono andare a lavorare. E poi c'è la povertà sanitaria, da non dimenticare, soprattutto in questo periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale è in crisi, perché oggi curarsi sembra quasi diventato un lusso, ci sono molti servizi che non sono inclusi nelle prestazioni obbligatorie, per cui se una persona non ha la possibilità economica non può avere una visita, oppure deve mettersi in lista d'attesa, ma le liste d'attesa sono spesso lunghissime. In tutto questo tu parli anche un po' delle politiche, come dire, nel recente passato erano stati introdotti degli strumenti che avevano mostrato i primi benefici, anche se erano strumenti imperfetti, insomma migliorabili. Oggi questi strumenti sono stati rimossi e la povertà sta aumentando. Sì, esatto, l'esempio più eclatante è quello del reddito di cittadinanza, che per quanto, come dicevi tu, era imperfetto e aveva generato una serie di meccanismi anche distorti, però in realtà era stato di grande sostegno a tante famiglie che invece oggi si ritrovano a non poter accedere a tutti quelli che sono stati poi gli strumenti che hanno sostituito il reddito di cittadinanza. Sì, oggi diciamo che la sensazione è che della povertà non interessa più a nessuno e la politica non ne parla, semplicemente, e quindi ignorando il problema e non mettendolo all'interno dell'agenda politica, di fatto riesce a togliere fondi a tutti quelli che erano gli strumenti di welfare per sostenere le famiglie in povertà, tanto che oggi siamo in una situazione paradossale per cui ci sono quasi 6 milioni di persone in Italia che sono in povertà assoluta, per cui un numero che comunque è sempre crescente, mentre parallelamente crescono i miliardari, per cui è come se la forbice si stesse divaricando sempre di più e la politica non solo ignorasse il problema, ma quasi un po' lo cavalcasse, soprattutto sì, perché le politiche favoriscono questo genere di accumulo anche del capitale. Ricordo che a Bologna la presentazione sarà questo venerdì 23 maggio alla libreria Sette Volpi, sarà in compagnia di Leonardo Tancredi, con cui hai lavorato appunto insieme col giornale Piazza Grande, giusto? Sì, esatto, lui era il direttore di Piazza Grande quando io lavoravo a Piazza Grande anche come volontario. solidaria, abbiamo fatto un percorso insieme che mi ha proprio, come dire, dato accesso, se vuoi, alla povertà in prima persona, perché di fatto abbiamo conosciuto le persone in povertà di Bologna e le abbiamo anche per un periodo sostenute attraverso il giornale.